Siamo in collegamento telefonico con l'attore Elio Germano per parlare dello spettacolo Viaggio al termine della notte che andrà in scena domenica 29 aprile al Nuovo Cinema Palazzo a Roma a sostegno di Radio Onda Rossa. Elio, ben trovato. Eccoci, ciao a tutte e tutti, bentrovati, eccoci qua. Allora, facciamo un po' di storia. Come nasce questo progetto? Allora, questo è un progetto che portiamo in giro ormai da diversi anni, è una specie di una cosa strana, indefinibile, forse per quello non ci siamo ancora stancati di portarla in giro, è una specie di lettura in forma di concerto, nel senso che anche io, come dire, leggo utilizzando dei microfoni e facendo sì che la voce diventi poi qualcosa di appunto di narrativo al di là della storia che racconto. Nasce da una collaborazione appunto mia con Teo Teardo, che è il musicista appunto con cui faccio lo spettacolo, e che poi ci parliamo anche di un trio d'archi, diciamo, però insomma è nato che eravamo soltanto io e lui. E avevamo lavorato insieme su un film di Vicari che si chiamava Il passato una terra straniera e da là abbiamo continuato a lavorare insieme. Ci è stato proposto a un certo punto di fare una cosa di una ventina di minuti in un contesto, era un festival letterario, per cui c'era stato chiesto di mettere in musica un testo che ci piaceva. Ci siamo visti con un po' di libri per uno, come dire, quale testo scegliamo. Alla fine il libro che avevamo in comune era Viaggio al termine della notte di Céline. E siamo partiti da quell'evento, mettendo in piedi una ventina di minuti, e poi da là, diciamo, abbiamo cominciato a continuato a far crescere lo spettacolo e poi non ci siamo più fermati. Ma sono 7-8 anni che lo portiamo in giro. Ecco, proprio a questo proposito, Elio, io vidi la performance che faceste in uno dei 3 giorni di inizio occupazione del Teatro Valle. Da quell'occasione in poi si è aggiunto questo trio d'archi femminili e volevo capire anche se si è sviluppato, si è evoluto lo spettacolo più in generale. Ma al di là del fatto che appunto la forma stessa è, come dire, aperta dello spettacolo, fa sì che noi, come dire, abbiamo dei margini di improvvisazione ogni sera, quindi ogni sera succede qualcosa comunque di nuovo, no? Di rimando tra me, tra la voce, gli archi e quello che fa Teo con i suoi tanti strumenti insieme in diretta. Abbiamo aggiunto tanti pezzi, tanti, come dire, non pezzi, come dire, narrativi, perché lo spettacolo ha sempre la stessa durata, ma pezzetti sul palco di appunto di effetti. Io ho 3 microfoni adesso, una volta ne avevo uno solo, con un looper pure, mi avvalgo anche di un looper, solo per quanto riguarda la mia postazione, diciamo. Poi ecco, gli archi sono cresciuti, da uno siamo passati a tre. Ci sono tantissimi elementi che secondo noi appunto aiutano a restituire in qualche modo la complessità del testo senza passare per le parole. Ecco, questa è un po' la nostra sfida, no? Per la forma, come dire, logica della narrazione, per cui poi ti restituisce, come dire, la trama. Ecco, è uno spettacolo in qualche modo senza trama che cerca di arrivare dritto un po' a quel linguaggio anche neanche di pancia, perché è una cosa che oggi significa altro, ma di viscere, ecco, che ha il libro e che cerchiamo, come dire, di riportare al pubblico così, senza passare per orpelli di nessun tipo, uno spettacolo nudo, siamo solo noi sul palco e con gli strumenti, con i cavi a vista e così, cerchiamo appunto di restituire in quest'ora quello che succede, è quello, un incontro tra il pubblico e noi in una zona appunto diversa rispetto a quella che di solito siamo abituati a trovare a teatro, perché insomma quasi più audio, ecco, Sì. che fatta di azioni sceniche. Sì. A proposito del testo, cosa ti aveva impressionato di Viaggio al termine della notte? Ma è un libro che secondo me è una specie di libro infinito, nel senso che più lo si rilegge, più si trovano cose, perché comunque è un'esperienza letteraria già di per sé stessa particolare, che poi infatti ha dato, come dire, adito a varie interpretazioni, alcune insomma di vario tipo. È un'esperienza di diario di una persona, come dire, che vive sulla sua pelle tutte le contraddizioni e la follia dell'epoca che sta vivendo, che poi probabilmente 100 anni dopo sta tornando con le stesse istanze, con gli stessi motori, insomma, in qualche modo. quindi in qualche modo questo collegamento sicuramente col nostro tempo, ma anche qualcosa di ancora più profondo, cioè che si collega con tutti i tempi, cioè con l'essere umano, quindi con le grandi domande, con le grandi questioni dell'essere umano appunto al mondo, della malattia, della morte, della guerra, del dolore, della vecchiaia. E quindi questioni evidentemente irrisolvibili, alle quali lui risponde appunto non con un linguaggio aulico o poetico, eccetera, ma con una frammentazione fatta di bestemmie, di appunto di polmoni, di organi interni, di sangue e merda, mi verrebbe da dire, in maniera assolutamente sgrammaticata anche molte volte, che restituisce in maniera molto più forte le cose di cui parla. Insomma, ecco, questa forma, come dire, storta e queste tematiche, come dire, infinite, sono quelle che ne fanno, secondo me, un libro che vale sempre la pena leggere. Ecco, a proposito invece della figura controversa di Céline, lui sicuramente è autore di tre pamphlet antisemiti e prese posizione sul nazionalismo e sull'asse, il che però lo rende incompatibile con il suo amaro nichilismo e anche con la critica alle tradizioni e ai regimi in generale. E questo suo essere controverso rende le sue opere molto ricche di spunti per gli artisti che lo vogliono affrontare. Sì, assolutamente, ecco, appunto, come lo stesso capita, ho visto ultimamente che l'hanno fatto anche appunto, sono quei classici artisti che poi vanno a finire in quella specie di finti dibattiti che fanno a Casa Pound, no? Cioè, per dire, no? Nelle derive in realtà, appunto, sfido chiunque a trovare è sicuramente un personaggio contro tutto e tutti, quindi che di fatto anche leggendo il libro, come dire, ed essendo questo libro, Viaggio al termine della notte, che è quello che è avvenuto prima, e forse è la sua vera e unica opera, come Sì. dire, in qualche modo è sicuramente la più complessa e la più personale, come dire, ha una deriva anche dal punto di vista della sanità mentale, quindi verso la fine la sua esperienza, lui alla fine si riduce in una specie nella sua esperienza proprio personale, di vita, una specie di barbone contro tutto e tutti, che vive appunto così. Quindi voglio dire, poi mi fa anche sorridere poi come lo si prenda a riferimento, perché c'è evidentemente delle cose che ha scritto, insomma, chi vuole dare valore a quelle cose conoscendo il personaggio finisce per attribuire meno valore alle cose che sostiene, perché evidentemente era in una parte di, come dire, come un po' il discorso con Nietzsche, no, se vuoi, Sì, cioè ci sì. sono, sai, le interpretazioni possiamo interpretare tutto e tutto come ci fa comodo o contro le cose che vogliamo denigrare. Secondo me, se ci si approccia così in maniera sincera e nuda al testo, è evidente che è un maremoto di questioni che sono molto prima della politica, ecco, come dire, proprio a livello dell'essere umano al mondo, ecco. Oh Elio, domenica 29, spettacolo al nuovo Cinema Palazzo a sostegno di Radio Onda Rossa. Rispetto a chi ci ascolta, diciamo anche qual è il tuo rapporto con questa emittente? Guarda, è una sicuramente da, come dire, da ascoltatore l'ho sempre frequentata, anzi, come dire, i servizi di Radio Gap, insomma, di tutte le esperienze, delle grandissime trasmissioni che appunto dal 77 ancora si fanno, e sono, come dire, quanto di più, nonostante tutto, poi, come la radio poi funzioni spesso in maniera anche, come dire, appunto, spontanea, e quindi ci sono delle cose che sono la più alta qualità che si può trovare rispetto alle trasmissioni, non perché sto parlando con te, insomma, ma il lavoro sul cinema, sul teatro, la grande trasmissione L'ora di religione, ma tutti gli approfondimenti che si fanno su tutte le questioni sono cose che evidentemente non si possono trovare da altre parti, per cui già solo per questo vale la pena sostenerla. E poi, ecco, rispetto all'approccio della radio, che è fatta appunto di un'adesione volontaria di gente che mette al servizio le sue, come dire, competenze per restituirle al pubblico, ci è sembrato una strada diretta quella di mettere al servizio le nostre competenze per aiutare la radio in qualche modo, così come tutti l'aiutano come possono e fanno sì che la radio funzioni. Ecco, ci sembrava il minimo nel momento in cui la radio ha bisogno di fare il nostro. Ecco, se facevamo i cuochi per lavoro avremmo fatto una grande cena. Facendo, insomma, sullo spettacolo ci è sembrato importante, come poi avvenne al Valle o in altre occasioni, di poterlo utilizzare anche per dare una mano, anche per cercare di, a parte per passare una bella serata e per restituirlo a tutti i compagni, uno spettacolo che ci fa sempre piacere condividere e poi di cercare di alzare un po' qualche soldino in un momento di necessità, quindi insomma siamo molto contenti di questo. Bene. Allora Elio, un abbraccio, ci si vede domenica 29 al Palazzo. Assolutamente, ciao, un abbraccio grande.